La cosa curiosa, e sulla quale non posso dilungarmi, è sino a che punto, più o meno in quel periodo, tutte le persone amate da Albertine, tutte quelle che avrebbero potuto farle fare quel che avessero voluto, abbiano chiesto, implorato, oserei dire mendicato, in mancanza della mia amicizia, qualche rapporto con me. Non ci sarebbe stato più bisogno d'offrire del denaro a Madame Bontemps perché facesse tornare Albertine da me. Questo ripensamento della vita, che si verificava quando non serviva più a niente, mi rattristava profondamente, non a causa di Albertine, che avrei vista tornare senza alcun piacere se me l'avessero riportata non più dalla Touraine, ma dall'altro mondo, ma a causa di una giovane donna che amavo e che non mi riusciva ad incontrare. Mi dicevo che se fosse morta o se avessi smesso d'amarla, tutti coloro che avrebbero potuto avvicinarmi a lei sarebbero caduti ai miei piedi. Nell'attesa cercavo invano di agire su di loro, non guarito dall'esperienza che avrebbe dovuto insegnarmi, ammesso che possa mai insegnare qualcosa, che amare è una mala sorte come quelle delle fiabe, contro le quali non c'è niente da fare finché l'incantesimo non sia cessato. Il libro che ho qui parla proprio di queste cose, mi disse Gilbert. Parlai a Robert di quel misterioso. Ci saremmo capiti, io e lei. Dichiarò di non ricordarsene e che la cosa non aveva comunque nessun senso particolare. È un vecchio Balzac che mi sto sorbendo per mettermi alla pari con gli zii. La fille aux yeux d'or. Ma è assurdo, inverosimile, un incubo bello e buono. Del resto, una donna può forse essere sorvegliata così da un'altra donna, mai da un uomo. Vi sbagliate. Ho conosciuto una donna che un uomo innamorato di lei era arrivato a sequestrare nel vero senso della parola. Non poteva mai vedere nessuno e usciva solo con servitori fidati. Ebbene, dovrebbe farvi orrore a voi che siete così buono. Dicevamo appunto con Robert che dovreste sposarvi. Vostra moglie vi guarirebbe e voi la fareste felice. No, ho troppo cattivo carattere. Che idea, vi assicuro. Del resto sono stato fidanzato, ma non ho mai saputo decidermi a sposarla e lei stessa vi ha rinunciato, per via del mio carattere, indeciso e molesto. Era infatti in questa forma alquanto semplificata che giudicavo, non vedendola più, ormai, che dal di fuori, la mia avventura con Albertine. Mentre risalivo in camera mia, mi rattristava il pensiero di non essere stato una sola volta a rivedere la chiesa di Combray, che sembrava aspettarmi in mezzo al verde, dentro una finestra tutta violacea. Mi dicevo, pazienza, sarà per un altro anno, se non muoio nel frattempo. Non vedendo altro ostacolo che la mia morte e non potendo immaginare quella della chiesa, che mi sembrava dover durare a lungo dopo la mia morte, così come era durata a lungo prima della mia nascita. Un giorno, tuttavia, parlai a Gilbert di Albertine e le chiesi se le piacevano le donne. Oh, no davvero. Ma una volta dicevate che non era per bene. Ho detto questo. Io? Sicuramente vi sbagliate. Comunque se l'ho detto, ma siete in errore, parlavo al contrario di piccole storie con dei ragazzi. A quell'età, del resto, è probabile che le cose non andassero molto in là. Gilbert me lo diceva per nascondere che anche a lei, stando a quanto mi aveva detto Albertine, piacevano le donne e che aveva fatto delle proposte ad Albertine? Oppure, visto che gli altri sono spesso più informati sulla nostra vita di quanto non crediamo, sapeva che avevo amato Albertine, che ne ero stato geloso e, poiché gli altri possono sì sapere più verità su di noi di quante non crediamo, ma anche estenderle troppo e cadere in errore per eccesso di supposizioni, mentre noi disperavamo in errore per assenza d'ogni supposizione. Immaginava che lo fossi ancora e mi metteva sugli occhi, per bontà, la benda che si tiene sempre pronta per i gelosi. In ogni caso, le parole di Gilbert, dal non per bene d'un tempo all'attuale certificato di vita retta e buoni costumi, seguivano un cammino inverso a quello delle affermazioni di Albertine, che aveva quasi finito col confessare una mezza relazione con Gilbert. Albertine, in questo, m'aveva fatto stupire, come di ciò che m'aveva detto André, giacché, per l'intera piccola banda, io ero stato inizialmente convinto, prima di conoscerla, della sua perversità. Poi mi ero reso conto che le mie supposizioni erano false, come succede tante volte quando si trova una ragazza onesta e quasi ignara della realtà dell'amore in un ambiente che si era creduto a torto il più depravato. Poi avevo rifatto il cammino in senso inverso, riprendendo per vere le supposizioni iniziali. Ma forse Albertina aveva voluto dirmelo per apparire più esperta di quanto non fosse e per affascinarmi a Parigi col prestigio della sua perversità, come la prima volta a Balbec con quello della sua virtù. E molto semplicemente, quando le avevo parlato delle donne a cui piacevano le donne, per non far la figura di ignorare cosa fosse, come quando in una conversazione si prende l'aria di chi la s'allunga se si parla di Fourier o di Tobolsk, pur non sapendo chi siano. Forse con l'amica di Mademoiselle Vinteuil e André, che non la credevano delle loro, era vissuta vicina, ma come separata da una paratia a stagna, e si era poi informata, così come una donna che sposa un letterato cerca di farsi una cultura, solo per compiacermi, mettendosi in grado di rispondere alle mie domande fino al giorno in cui aveva capito che esse erano ispirate dalla gelosia e aveva fatto marcia indietro. A meno che, a mentirmi, non fosse Gilbert. Mi venne persino in mente che Robert l'avesse sposata proprio per aver saputo da lei, durante un flirt condotto nel senso che lo interessava, come non le dispiacessero le donne, sperando piaceri che poi in casa evidentemente non aveva trovato, visto che se li andava a prendere altrove. Nessuna di queste ipotesi era assurda, giacché in donne come la figlia di Odette o le fanciulle della piccola banda vi è una tale varietà, un tale cumulo di gusti alterni se non simultanei, che passano tranquillamente da una relazione con una donna a un grande amore per un uomo, tanto che risulta difficile definirne il gusto reale e dominante. Non volli chiedere a Gilbert la sua fille aux yeux d'or perché stava leggendola lei, ma mi prestò da leggere prima di addormentarmi quell'ultima sera che passai in casa sua un libro che mi fece un'impressione assai vivace e composita, destinata, peraltro, a non durare a lungo. Era un volume del journal inedito dei Goncourt. E quando, prima di spegnere la candela, lessi il brano che poco oltre trascrivo, la mia mancanza di disposizione per la letteratura, presentita in altri tempi dalla parte di Germain, confermata durante il soggiorno, di cui questa era l'ultima sera, una di quelle sere che precedono una partenza e in cui, venendo meno l'intorpidimento, dovuto alle abitudini che stanno per cessare, uno cerca di giudicarsi, mi parve qualcosa di meno spiacevole, come se la letteratura non rivelasse alcuna verità profonda e, nello stesso tempo, mi sembrava triste che la letteratura non fosse ciò che avevo creduto. D'altra parte, meno spiacevole mi sembrava la mia salute cagionevole, che mi avrebbe confinato in una casa di cura, se le belle cose di cui parlano i libri non erano più belle di quanto avevo visto. Ma per una contraddizione bizzarra, adesso che quel libro ne parlava, avevo voglia di vederle. Ecco le pagine che lessi finché la stanchezza non mi chiuse gli occhi. L'altro ieri capita qui per portarmi a pranzo a casa sua Verdurin, l'ex critico della Revue, l'autore di quel libro So Whistler, in cui davvero la mano, il talento coloristico dell'originale americano, è reso non di rado, con grande delicatezza, da quell'innamorato di ogni raffinatezza, di ogni grazia della cosa dipinta che è Verdurin. E mentre mi vesto per seguirlo, è, da parte sua, tutto un raccontare dove c'è a tratti come il compitarsi timoroso d'una confessione sulla sua rinuncia a scrivere subito dopo il matrimonio con la Maddalena di Fromentin, rinuncia che sarebbe dipesa dall'abitudine alla morfina e a causa della quale, a detta di Verdurin, la maggior parte degli habitués del salotto di sua moglie non saprebbero nemmeno che il marito abbia mai scritto. Egli citerebbero Charles Blanc, Saint-Victor, Saint-Beuve, Bourty, come individui ai quali lo credono, lui, assolutamente inferiore. Su via! Voi Goncourt lo sapete, e lo sapeva anche Gautier, che i miei salons erano ben altra cosa rispetto a quei pietosi maîtres d'autrefois stimati un capolavoro nel giro di mia moglie. Poi, in un crepuscolo che accende attorno alle torri del Trocadéro, come l'ultimo guizzo d'un chiarore che ne fa delle torri affatto simili a quelle rivestite di gelatina di ribes dei vecchi pasticceri, la chiacchierata continua nella carrozza che deve condurci a Quai Conti, dove è ubicato il loro palazzotto, che il proprietario pretende essere l'antica residenza degli ambasciatori di Venezia, e nel quale ci sarebbe un fumoir di cui Verdurin mi parla come d'una sala trasportata identica, al modo delle mille e una notte, da un celebre palazzo di cui non ricordo il nome. Palazzo la cui vera di pozzo, raffigurante un'incoronazione della Vergine, dovuta senz'ombra di dubbio, sostiene Verdurin, al miglior Sansovino, servirebbe ai loro invitati per gettarvi la cenere dei sigari. E in fede mia, quando arriviamo, nel diffuso glaucore d'un chiaro di luna davvero simile a quello di cui la pittura classica riveste Venezia, e di contro al quale la profilata cupola dell'Institut fa pensare alla salute nei quadri del Guardi, ho un poco l'illusione d'essere sulla riva del Canal Grande. Illusione alimentata dal modo in cui è costruito il palazzotto, dal primo piano del quale il Quai non è visibile e dal dire evocatore del padrone di casa quando afferma che il nome della Rue du Bas, il diavolo mi pigli se ci ho mai pensato, verrebbe dal Bas, ossia traghetto, usato da certe monache d'una volta, le Miramione, per recarsi alle funzioni di Notre-Dame. Quartiere dove bighellonò in lungo e in largo la mia infanzia, quando vi abitava mia zia de Courmont, e che prendo a riamare, ritrovando, pressoché contigua al palazzotto dei Verdurin, l'insegna del Petit Dancaire, un negozio. Uno dei rari sopravvissuti altrove, che negli schizzi a matita è l'acquerello di Gabriel Saint-Huban, dove il Settecento curioso sostava nei suoi momenti d'ozio per rifornirsi delle graziosità francesi e straniere e di tutto quanto l'arte produce di più nuovo, secondo quanto recita una fattura del Petit Dancaire, fattura di cui noi siamo i soli, credo, Verdurin e io, a possedere una prova di stampa, e che è uno di quei volanti capi d'opera di carta adorna di fregi, in cui il regno di Luigi XV soleva fare i conti. con la sua testatina raffigurante un mare tutto ondoso, gremito di vascelli, mare le cui onde ricordano un'illustrazione di L'Huître e Les Plaideurs nell'edizione dei Fermiers Généraux. La padrona di casa, prima di farmi sedere al suo fianco, mi dice amabilmente di aver infiorato la tavola soltanto di crisantemi giapponesi, ma crisantemi disposti in vasi che sarebbero rarissimi capolavori, l'uno dei quali avrebbe, sul bronzo, petali di rame rossastro, simili al vivo sfogliarsi del fiore. Ci sono Cottard, il medico, con sua moglie, lo scultore polacco Wieradobecki, Swan, il collezionista, una gran dama russa, una principessa il cui nome in Ov mi sfugge, e Cottard mi bisbiglia all'orecchio che sarebbe stata lei a sparare bruciapelo all'arciduca Rodolfo, a sentire la quale io godrei in Galizia e in tutto il nord della Polonia d'un prestigio assolutamente eccezionale, tanto che una fanciulla non acconsentirebbe mai a promettere la propria mano senza essere certa che il fidanzato ammira la Faustin. Voi non potete capirlo, voi occidentali, butta la guisa di conclusione la principessa, che mi fa in vero l'impressione di un'intelligenza affatto superiore. Questo penetrare d'uno scrittore nell'intimità della donna. Un uomo con mento e labbra rasati e favoriti da maggiordomo, intento a snocciolare in tono condiscendente battute da professore di ginnasio a colloquio coi primi della classe in occasione della festa di San Carlo Magno, è Brichot, l'universitario. Quando i Verdurin pronunciano il mio nome, non fa motto di conoscere i nostri libri, e in me c'è avvilimento rabbioso per il complotto organizzato contro di noi dalla Sorbona, complotto che porta fin nell'amabile dimora dove mi si festeggia la contraddizione, l'ostilità di un silenzio voluto.